Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Ed eccoci ad una nuova puntata di Medium, il podcast su Netrunner. Io sono sempre Federico e vi do il benvenuto in questa puntata speciale, nella quale parliamo ovviamente del torneo nazionale che si è appena svolto a Spilamberto. Innanzitutto un ringraziamento fondamentale e molto sentito al Paddo e anche a Irene, che si sono resi disponibili per l'organizzazione dell'evento. Un ringraziamento inoltre va a tutti coloro che hanno partecipato, rendendo questo evento molto molto bello, divertente, ma anche rendendo il clima molto cordiale e senza conflitti inopportuni. Come è andato il torneo? Allora, io vi posso dire che per quanto mi riguarda è andato molto bene, perché non mi aspettavo di arrivare primo alla Svizzera e secondo all'intero evento. Quindi, ecco, insomma, i miei mazzi hanno performato meglio di quello che pensavo e sono stato fortunato e vai, dai, ci ho anche messo un pochettino del mio. Mi sento di prendermela questa responsabilità e questo merito. Allora, io avevo portato due mazzi abbastanza standard con qualche twist. Quindi avevo portato un MBN Fast Advance, il mio cavallo di battaglia quando vado ai tornei. Il twist che ci avevo messo non è chissà che gran twist, ma erano i Power Shutdown. Ne avevo messi tre, sacrificando quindi un po' magari di sorprese sul fronte degli Ice, perché non l'influenza è andata quei sei punti sui Power Shutdown. Però ecco, l'idea che avevo messo in piedi era: faccio un mazzo per cui ti serve per forza corroder i primi turni se vuoi entrare, se non entri scorro le agende, se prendi corroder te lo porti a casa, te lo Power Shutdown possibile, e quindi ti crea una situazione per cui ti rimane difficile stare al passo con la recursion, quindi andarti a riprendere l'eventuale corroder e quant'altro. È un mazzo che sicuramente l'MBN soffriva molto della presenza dei programmi di intelligenza artificiale, quindi degli icebreaker generici, i quali chiaramente rompevano la maggior parte dei miei ice in maniera facile, tranne per Warp Around, il quale poi però appena arrivava un corroder, anche senza utilizzare il corroder o l'inti, mi veniva rotto in un attimo anche dall'AI. Quindi ecco, insomma, in generale avevo prediletto un metagame che vedesse giocare pochi icebreaker generici e più magari cercando di andare a colpire tutti i runner che pensavano di fare un full rig veloce, come poteva essere tutti i mazzi che prevedono gli special order, o tutti i mazzi che prevedono i test run e i self modifying code. Quindi ecco, il mazzo MBN ha girato molto bene, economia impeccabile, anche a pochissimi soldi portava a casa le agende e non mi ha dato nessun problema. L'unico twist era questo dei Power Shutdown, per il resto era un Fast Advance standard, senza i Biotic. Invece per quanto riguarda il runner, ho voluto portare qualcosa di molto più sperimentale, ovvero una Kate in grado di calare velocemente un full rig, andandosi a prendere con i self modifying code e i test run i vari icebreaker necessari, e una Kate piena zeppa di eventi, quindi con i prepaid voice pad in grado di generare più economia per quanto riguarda tutti gli eventi che richiedono quindi economia per essere giocati, come Lucky Find e Edge Fund e Dirty Laundry. tutta questa economia molto esplosiva, con l'obiettivo di mettere la Corp nella posizione di non sapere mai se sono pronto ad attaccare oppure no. Cioè, se sono basso di soldi non necessariamente vuol dire che non riesco ad attaccarti quel server, perché un'economia molto esplosiva mi consente di andare velocemente a trovare le forze economiche per poter entrare nel server che pensavi fosse inespugnabile. Aggiungi a questo un 1 per di tutto quello che poteva essere utile e un levy lab per rimischiare tutto quanto. Oltre a questo poi c'erano i 3 same old thing che hanno veramente fatto la parte da leone in questo torneo, e quindi insomma un classico mazzo Kate pieno di sorprese, spinto ancora di più con la presenza quindi dei prepaid voice pad e la presenza anche di Overmind come sorpresa per rompere quello che può sembrare qualcosa di non rompibile al momento. Insomma, un mazzo che doveva destreggiarsi al momento senza una strategia ben definita. A quanto pare può aver tratto in inganno molte corporazioni, le quali si vedevano pensavano di essere sempre scoperte ovunque mettessero, e quindi ho dato la possibilità al runner di prendersi quel tempo per poter diventare full rig e poi entrare ovunque grazie a questa economia esplosiva e ricorsiva. Le prime partite sono andate così così, perché ho incontrato due Anarch, i quali appunto, come dicevo, utilizzavano i breaker generici, quindi ho sofferto molto come corp. E le seconde tre partite, quindi la terza, la quarta e la quinta partita sono andate un po' meglio. Devo dire che sono stato anche fortunato, perché comunque ho fatto dei multi accesso con multi agenda, però ovviamente la NBN ha girato molto bene e quant'altro. Durante il nazionale ho fatto qualche piccola intervista, soprattutto all'inizio, poi alla fine ero talmente stanco che non ci ho proprio pensato di fare qualche intervista col cellulare. Scusatemi se la qualità dell'audio fa un po' cagare, però insomma meglio di niente. Vi passiamo quindi subito alle interviste del nazionale. Allora, siamo qui con Franz al secondo match già svolto del torneo nazionale di Netrunner. Franz è un giocatore relativamente nuovo che ho l'orgoglio di aver inserito all'interno di questo splendido gioco. Sentiamo che cosa ci dice di queste due partite. Sono andate tutte piuttosto bene, ho avuto però consecutivamente due pescate abbastanza tristi con la corp, questo mi fa pensare che in realtà sia il mazzo che è triste e non la pescata o il giocatore. Però niente, una vittoria e un pareggio in entrambi i casi, in entrambi i turni. Mi sono molto divertito, perché poi i ragazzi con cui ho giocato erano toscani molto simpatici, è stato molto divertente. E devo dire il clima è molto piacevole. Il meta era come te l'aspettavi? Sostanzialmente sì, ho incontrato quello che ho incontrato già in altre occasioni, cioè degli NBN, del Fast Advance, un HB con Big Eyes, e dal punto di vista del runner ho incontrato le gran carte verdi, che è piena di trucchi, trucchetti e giretti vari, insomma. Poi ho incontrato anche un ricordo l'identità che usa 3 soldi per trashare, Wizard. E fondamentalmente però lo stile di gioco degli altri runner che ho incontrato è lo stesso, cioè crea il rig pieno di trucchi per bypassare gli ice e basta. Ho incontrato poco di quello, come il mio per esempio, un criminal che invece a testa bassa genera molta economia e ne spende altrettanta per bypassare gli ice. Qui finora nessuno mi ha scorciato come al precedente torneo, e quindi sono già soddisfatto che sono riuscito a evitare questa morte ignominiosa. Bene, grazie Franz, in bocca al lupo per le prossime partite. Crepi, ciao! Allora, siamo qui con Luca e... No, non sono nelle condizioni. Andrea. E Andrea, come stanno andando queste due partite che avete già fatto? Siamo qui in pausa pranzo, parliamone. Allora, la piadina era buonissima e sono andate bene, siamo entrambi a 4 vinte. Quindi siete in cima alla classifica. Siamo in cima alla classifica. Sì, 5 a 1 che ci becchiamo al prossimo turno. Porca puttana, no, ti prego. Poi le cesurate. No, cazzo ce ne frega. Il meta ve l'aspettavate così oppure avete trovato delle sorprese? Incredibilmente sì, perché io credevo che ci fossero dei gintechi e ci sono stati. Gli anni bianchi li ho trovati. Il meta runner ormai è variegato. È solo una cosa se mi troverò degli Anarch. Sarà quello, sarà una sorpresa, però per adesso non ho trovato. Ho avuto un match piuttosto atipico in realtà, visto che mi sono trovato a fronteggiare un Chaos Theory con le Femme Fatale che balzavano da dentro e fuori. Erano più Femme Fatale, fino a due me ne ha messe giù in gioco. E Corp cos'è che aveva? Aspetta. Sì, Celebral Image in combo, la versione americana. Molto bello. Assolutamente fan. Non competitivo, troppo scoperto da mille punti di vista, però bello da vedere giocare. Quello con la combo finale. Quello con la combo finale, esattamente. Se ce la fa. E chiude con i Biotic Labor e le shipment nuove, esatto. Carino, solo che non ha una. Non regge, nel senso che troppi pochi ice. Vuole pescare, proteggersi, fare un sacco di soldi, chiudere con i biotic. Non lo so. È la prima cazzata, non ce la fa a recuperare. È il primo combo, è il primo archetipo combo, però deve ancora svilupparsi, secondo me. Deve ancora dare qualcosa di più. E NBN tantissimi in giro. Io ero così del NBN, non aspettavo. Ti aspettavi? Cioè, mi aspettavo NBN e Gintechi. Solo per i coraggiosi. In realtà però dicevo tra me e me, non ci saranno tanti Gintechi, ci saranno magari di Wayland, che sono Sony, NBN comunque, HB, Fast Advance. Invece per adesso dal mio punto di vista sono stato sorpreso, perché il meta che mi aspettavo è che giustamente uno dice ma no, ci sarà qualcosa, invece non sono proprio. Wayland scala. Va bene, grazie mille per l'intervista, in bocca al lupo per le prossime partite e buona digestione. Come droppate? Addormentate perché avete mangiato troppe piade. Sul tavolo. Bene. Quarto turno, io mi do quattro turni. Quarto turno comincio a cedere. Siamo qui dopo il secondo match con Francesco, Varalai, Nicola, J-Bell o Quack. Ok. E come sono andate le partite, ragazzi? Allora, molto bene, molto divertenti, grandi giocatori tecnici, le prime vinte solo sculando, le seconde Baralai ovviamente punisce il giocatore improvvisato con la sua pressione costante, macinante, inflessibile, e riesce a vincere senza breaker con tanti ice che fanno underrun. Ci riesce solo lui. Culo. Cioè, sentiamo culo. Cosa dice Baralai. Allora, no, una prima partita senz'altro piacevolissima, con un giocatore non espertissimo alla sua prima esperienza di torneo, che però è stata tonica, e devo dire che è stato semplicemente molto sfortunato, e io, pur non approfittando eccessivamente, oggettivamente ho dovuto comunque sfruttare la situazione. Seconda partita contro J-Bell, troppo lunga da raccontare ragazzi, però fantastica. No, facci capire. Non so cosa posso dire. Vai. Senza icebreaker in maggio, con gli icebreaker nel cimitero. Allora, c'è stata una sfortunata, un grossissimo errore da parte mia, ovvero ho runnato quella che immaginavo essere una Sansan, non tanto per trasciarla quanto per fare un credito di Desperado e una carta di Masanori, e mi sono ritrovato una Sansan protetta da uno Psychic Field, che ovviamente ti ha tolto tutte le carte di mano, il cui psi è stato miseramente perduto, e mi ha fatto trasciare le carte di mano, ovvero due emergency shutdown, sì, e c'era un wraparound rezzato su HQ, e come voi sapete non ho il fracter nel mazzo, non ho il fracter nel mazzo, e in secondo luogo ho trovato ho scartato ben due Atman su tre, quindi praticamente avevo un icebreaker nel mazzo. Momento di sgomento, ho deciso di insistere, tampinare l'R&D, perché lui ha fatto, secondo me, l'errore, la cattiva valutazione, non aveva fretta, poteva farlo dopo, di fare un biotic per Astroscript fast traccato e rimanere a zero crediti, e io a quel punto, sperando che non avesse un altro fast track in mano, ho cominciato a locare R&D cliccando Eli. senza breaker e ha pagato. Bene, e anche Federico, questo... com'è andata? E a te? Ah, a me è andata molto, molto bene, nel senso che partite, la prima in particolare, molto epiche. La seconda posso annoverare nell'arco di un turno di aver fatto un legwork e un maker's eye per vincere il... la partita. Nowhere to hide. Esatto, non ti puoi nascondere da nessuna parte. Però in compenso la mia avidità di agende mi ha fatto beccare uno Scorchedert al primo turno. Al invece, primo turno? No, al primo, cioè alla prima partita. E no, sì, eravamo all'ultimo round proprio. Era l'ultimo turno per me e l'ultimo turno per lui. Lui l'ultimo turno mi ha tirato uno Scorched in faccia. Ha fatto bene perché comunque io sono stato avido e mi sono andato a prendere uno snare con un legwork sulla mano, però ci stava, era troppo epico. Scorched Bia. Esatto, aggiungo una postilla che Varalai si conferma anche giocatore creativo, perché in questo torneo rivaluta le carte morchia e poi vi dirà mamma lui. Vi dirà lui. C'è stata anche tu, c'è stata una rivalutazione fantastica di zio Sherlock. Esatto. Signore e signori, è la scelta del meta. E J Bell ci ha stupito e mi ha inculato con uno Scrubber Connection ostaggiato che mi ha completamente devastato l'economia. Oh, sorpresa, cioè il meta non è fermo, ragazzi, anzi, da tutte e due le parti, anche se le corp stravincono e si dice che il fast advance vince. C'è di tutto. Il runner criminale è sempre il migliore, ma c'è di tutto. Io sto contro Anar che soffro. Un sacco di noise, tra l'altro. Esatto, un sacco di noise. Non ce li aspettavamo. Un sacco di noi, sia in premio che in gioco. Un sacco di noi. Esatto. Forse è stato proprio il premio che ha attratto tanti, tanti Anarch a venire a giocare. Probabilmente sì. Va bene, grazie ragazzi. Grazie. Ci sentiamo dopo per ulteriori commenti. Okay. Yeah. Allora, siamo qui con il Paddo, l'organizzatore di questo torneo. Che nei momenti morti gioca a Netrunner con Irene Days, la mascotte del nostro gruppo, fondamentalmente. Mascotte. Sì, è l'unica. La segretaria al torneo. Come sta andando questo torneo? Tutto secondo i piani? Ah, non lo so, chi lo sta seguendo? Quale torneo? Quale torneo? Lasciami giocare. No, tutto bene. Soliti nomi in cima alla classifica. Partecipa anche il campione italiano di Magic, se interessa qualcuno. Ah, chi è? Matteo, e non mi ricordo il cognome, di Tommaso, qualcosa del genere. Sì. Me l'hanno venduto come campione italiano, poi sì. No. Facciamo questa cosa prima di diventare. Va bene, grazie Paddo per l'intervista. Irene, spacca il culo. Grazie. Qualcosa di un po' noioso. Ciao a tutti, siamo qui con Diego e Enrico. Allora, com'è andato questo terzo match? Con chi l'hai fatto? No, chiedimi come sono andati i primi due. Come sono andati i primi due? Meglio del terzo. Ok. Lo sto sfottendo perché il terzo match l'ha fatto con me e le ho vinte tutte e due, ma un po' sculato, onestamente. Tu com'è andata? I primi due match il runner mi ha mollato, proprio zero. Nel terzo match si è rifatto, ma mi ha mollato la corpo in compenso, okay. Quindi non sta andando proprio come pensavo andasse, però vabbè, insomma. È il tuo primo torneo? Di grande sì, ne ho fatti due piccoli a Padova. Ok, e il meta ve l'aspettavate così? Diego? Non sapevo. Che meta ti aspettavi? Non saprei, sinceramente. Ma avevano detto che più o meno era, come persone erano, insomma, simpatiche tutte qua. Sì, nella difficoltà di gioco pensavo meno diversità tra i giocatori che hanno appena iniziato e invece quelli i pro, diciamo. Ok, però quelli esperti hai visto che c'è proprio un altro modus giocandi. Enrico? Secondo me. Allora, io a casa non ho un meta, quindi sono alieno anche a qualsiasi... Ah, non giochi a Padova con qualcuno? Cioè non sono di Padova io. Ah, ok, pensavo fosse a Padova. Pensavo ci fossero molte NBN. Veramente ce ne sono, io di tre non ne ho vista neanche una finora, okay. Ma ho visto la mia perché ce l'ho. Che runner l'hai visto? Ho visto due Andromeda e Orina Europa. Minchia, io non ho visto nessuno di Andromeda e non vedrei l'ora di giocarci con Andromeda. Qualcosa che volete dichiarare nel podcast? Anche viva la figa, Anche volgare. Comunque un'esperienza bellissima. Bene. Usate HB perché gli dei saranno dalla vostra. Allora, siamo qui in presenza del Meta Fiorentino e abbiamo Matteo Di Tommaso e Matteo qualcos'altro. Ok, è un'intervista particolare perché abbiamo qui un campione di Magic, mi dicono, quindi... Non esageriamo. Da quant'è che giochi? A Magic da quando avevo 10 anni, ora ne ho 30, quindi... Invece a Netrunner? Da 2 mesi. E qual è il tuo risultato attuale? 10 punti al terzo turno. Ecco, si capisce subito che non c'è bisogno di avere dei mazzi buoni, bisogna essere dei buoni giocatori. E con quest'ultima micro intervista, nella quale ribadiamo ancora una volta che Netrunner è un gioco fatto dai giocatori e non dalle carte del vostro mazzo, sono molto orgoglioso di aver tirato fuori, come dire, quest'ultima considerazione finale, perché credo che il bello di Netrunner sia proprio questo. È finito, diciamo, con una situazione finale al quinto turno di Svizzera, nella quale più o meno i giocatori esperti hanno prevalso. Io a quanto pare ero fra i giocatori esperti, ma onestamente mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, nel senso che c'erano persone che meritavano molto più di me di essere presenti in classifica. Questa volta mi è andata bene e sono contento comunque di aver fatto l'esperienza di queste finali con il doppio turno di eliminazione, come dire, queste finali con il singolo match nel quale puoi permetterti di perdere una volta e rimanere all'interno delle finali, e alla seconda volta vieni sbattuto fuori, ma giochi sempre contro persone differenti, con una volta il runner, una volta la corp. Questa double elimination è stata introdotta da poco all'interno del tournament structure di Netrunner. Penso che sia una forma indiretta di micro giro di Svizzera, nella quale si fanno solamente le partite singole e non il match completo, un runner, una corp. Non mi ha entusiasmato molto, però sicuramente meglio della situazione precedente, nella quale vinta una partita potevi permetterti di fare quel puntarello che ti avrebbe portato alla vittoria definitiva di tutto il match, e quindi sfalsava completamente sia il meta dal punto di vista dei mazzi che venivano portati, quindi meno mazzi che concedevano agende e molti più mazzi che andavano a fare agende velocemente, anche magari perdendo poi alla fine, e quindi insomma ha corretto una situazione abbastanza anomala. Io personalmente, e questa magari è un'opinione sulla quale possiamo discutere, Netrunner lo vedo molto come un gioco in cui fai solo la Svizzera, cioè non fai le finali, tanto comunque al primo tavolo è come se guardassi la finale, al primo o al secondo tavolo, a meno che quindi non ci sia una in cima alla classifica una forte situazione di parità, che ne so, tutti i primi 6 giocatori allo stesso punteggio. In realtà è il primo tavolo che ti fa vedere quello che sarà il gran finale. Bastava fare un ennesimo turno di Svizzera, quindi invece che 5 farne 6, e avremmo avuto una situazione secondo me molto più limpida, molto più chiara, al contrario invece con questi match nel quale, che ne so, io incontro in finale, diciamo, i top 4, io incontro il quarto e gioco con lui corp contro runner, io sono la corp e lui è il runner. Poi incontro il terzo in classifica e io gioco il runner, lui la corp. Secondo me comunque è un modo un po' indiretto di fare una specie di Svizzera. A questo punto fai la Svizzera, giocano anche quelli che sono più in basso nella classifica, fanno una partitina in più in modo da potersi concedere la possibilità, che ne so, di salire un pochettino all'interno della classifica e ottenere magari il posto che spetta loro, piuttosto che insomma vedersi esclusi dall'ultima competizione e star lì a guardare. Poi è chiaro, magari ci sarà chi mi dice no, io voglio smettere di giocare perché magari il mio torneo è andato molto male, guardarmi le finali perché mi gusta guardarmi le finali. Però onestamente, ecco, insomma, in generale io sono a favore della Svizzera pura, secondo me è la cosa migliore per Netrunner. Poi altri giochi sicuramente possono prediligere altre situazioni, però insomma in Magic, dove puoi fare 3 partite per decidere chi vince, sicuramente non ci sono questi problemi nei quali andiamo incontro quando giochiamo a Netrunner. Detto questo, quindi a buon intenditor poche parole, leggi Paddo, vi saluto per oggi e vi annuncio già che visto l'arrivo dell'estate e impegni diciamo di carattere più importante rispetto al podcast, ci sarà una sorta di diluizione della quantità di podcast che andrò a rilasciare durante questi mesi. Poi probabilmente dall'inizio, come dire, dell'anno scolastico riuscirò ad essere un pochettino più costante. È chiaro, se avessi un aiuto da qualcheduno nel fare, come dire, le puntate, nel produrre materiale, produrre contenuti, e parlo a te, Mister Spada, che vuoi fare la rubrica dello zio Wotan, falla assolutamente, però insomma, se possiamo inserirla all'interno di Medium sarebbe una gran bella cosa. Bene, Federico qui vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e ci becchiamo al prossimo torneo o al prossimo evento in generale. Grazie mille, ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.